e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, buongiorno Nicoletta, buon 4 luglio, giorno dell'indipendenza, non festeggiamo noi, festeggiano dall'altra parte dell'oceano, è una ricorrenza importante, infatti quella di oggi per gli Stati Uniti, come vi dirò tra poco, come da tradizione, infatti anche Wall Street si riposa in questa giornata, invece negoziano regolarmente le borse europee e fra un po' vi faccio il bilancio e come al solito la settimana parte male. Parte male, ma a proposito di riposo, sì. Il riposo lo sappiamo bene che è nutrimento, anche gli atleti durante l'allenamento osservano un giorno di riposo durante il quale si misurano vantaggi considerevoli sul piano fisico, psichico e anche muscolare. Chissà se questo è vero anche per le borse, chissà come Wall Street riaprirà domani, no? No, stavo pensando, visto che hai citato gli atleti, chissà se si stanno riposando i calciatori italiani che sono tornati ieri. Ah, mamma mia. Che scopolona che abbiamo preso. Allora, però sono stati bravi. Sono stati bravi. Comunque sempre belli. Sì. Allora, intanto possiamo dire che sarà un 4 luglio un po' sottotono, sempre rimanendo agli Stati Uniti, perché per quanto riguarda i tradizionali fuochi d'artificio, tanto attesi dalle famiglie americane in questa occasione, a causa della siccità che dal mese di aprile sta affliggendo buona parte della costa occidentale degli Stati Uniti, in molti stati sono entrati in vigore numerosi divieti che impediscono alla cittadinanza di accendere fuochi all'aperto o utilizzare artifici pirotecnici in prossimità di spiagge, campi, foreste e parchi, e quindi niente barbecue, magari si consoleranno con un bel tuffo in piscina o perché no con uno shirin yoku. E certo, lo sai, il mio giapponese va avanti. Chiamiamo Mario Platero e vediamo se fa un'indagine per noi. Sì, è letteralmente significa bagno nelle foreste. Si tratta di una pratica giapponese, il nome già ce lo dice, molto diffusa sembra in America. L'idea di base è che un'immersione, una corsetta nel verde, possa curare tutte le condizioni legate allo stress, alla stanchezza e alla fatica, insomma un colpo di spugna a tutti i malesseri che provocati dal logorio della vita moderna. Quindi pensa che addirittura una ricerca australiana sostiene che sia utile per abbassare anche i rischi di depressione e tenere sotto controllo la pressione. Mi sembra un po' tanto. Comunque, se avete un bosco a portata di mano, fateci un tuffetto e poi scriveteci, chiamateci anche per raccontarci, che so, le vostre ricette per ritrovare la carica. Ne faremo tesoro. Esatto. Intanto, a proposito del colpo di spugna citato da Nicoletta poco fa, con un colpo di spugna cancelliamo tutte le notizie fino a questo momento, andiamo alla rassegna stampa. Beh sì, la musica come sempre è vivace e brillante, ma devo dirvi che stamattina in borsa vedo di nuovo un quadro cupo, particolarmente per Milano, che parte in questa settimana con un ribasso di un punto percentuale. Sono negative anche le altre piazze europee, meno 0,21% Parigi, Francoforte meno 0,17%, Londra meno 0,03%. Ha chiuso positivamente invece l'Asia, il Nikkei a Tokyo più 0,60%. Cosa succede? Succede che, tanto per cambiare, abbiamo sotto i riflettori i titoli del settore bancario e ancora una volta l'epicentro delle preoccupazioni generali è l'Italia. Allora, abbiamo il caso di oggi, che sarà un caso che probabilmente condizionerà ancora per diverse settimane. Monte dei Paschi, meno 8 punti, 35 centesimi, più volte fermata in asta di volatilità. Cosa è successo? Ci sono state delle indiscrezioni pubblicate stamattina da Repubblica sulla lettera ultimatum della Banca Centrale Europea al gruppo senese, in cui invita l'istituto a presentare al più presto un piano triennale per riportare a livello fisiologico la percentuale dei crediti in sofferenza, che è il grande dramma di questa banca, ma in verità è anche un grandissimo problema per tutte le banche italiane. Poco fa, con un comunicato stampa, Monte dei Paschi ha reso noto quali sono gli step con cui intende rispettare le indicazioni fornite dalla Banca Centrale Europea, ma al momento il titolo non riesce a risollevarsi e peraltro porta con sé anche tutti gli altri titoli bancari. Pop Emilia Romagna meno 5, Intesa San Paolo meno 4, UbiBanca meno 4, Fineco Bank meno 3,72, Banco Popolare meno 3,49, Unicredit in ribasso di 3,5 punti. Anche questo gruppo ha avuto la designazione del nuovo amministratore delegato la settimana scorsa, notizia della quale il titolo ha beneficiato per qualche ora, poi è piombata di nuovo al ribasso la banca, per l'appunto perché a questo punto si attendono anche in questo caso iniziative straordinarie di rafforzamento del capitale. Vedremo se il nuovo amministratore delegato Mustier appunto sarà in grado di dare notizie più dettagliate su questo. A proposito di Monte dei Paschi, segnalo che oggi a Roma è previsto un vertice fra il Ministero del Tesoro, la Cassa Depositi e Prestiti e il Fondo di Stabilizzazione Bancaria Atlante. Allora, hai fatto caso come fosse deserta Milano in questo weekend? Allora, non ero a Milano, ma quando sono rientrato ho notato che c'era poco traffico. Ma sai, non c'era nessuno? Ormai si comincia a fare dei bei weekend fuori porta. Gli occhi sono però puntati sulle vacanze, fra chi va all'estero e chi rimane in Italia. Ci occupiamo stamattina di coloro che, a prescindere dalla meta, scelgono di andare in affitto. C'è una quota crescente di italiani che cerca su internet l'abitazione da affittare per il soggiorno estivo, mare o montagna che sia, ma pare che ci sia anche un numero crescente di disavventure in cui incappano molti malcapitati turisti, al punto che è stato lanciato un allarme da parte della Polizia di Stato, che ha pubblicato un vademecum per chi cerca alloggi per le vacanze in rete. Ne ha scritto Francesca Milano del Sole 24 Ore, che salutiamo. Francesca, buongiorno. Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti. Benvenuta. Tra l'altro, stamattina con Marco Lombardo abbiamo fatto una grande ricerca per capire se ci fosse una statistica ufficiale su quanti italiani, per esempio nel 2015, avessero scelto di fare la loro vacanza con affittando appunto un'abitazione. Lo sai che questo dato non c'è, ma io secondo me non c'è, perché in realtà c'è un fenomeno talmente elevato di nero e di evasione fiscale. Ecco, subito, che la statistica ufficiale è impossibile farla, tanto che l'anno scorso la Guardia, adesso racconteremo dell'attività della Polizia di Stato, ma c'è un bilancio della Guardia di Finanza dell'anno scorso che ha fatto centinaia di interventi a contrasto degli affitti irregolari di seconde e terze case nelle principali località di villeggiatura, e sono state riscontrate tantissime violazioni, pare nella metà dei casi, e quindi da questo poi naturalmente partono tutti gli accertamenti fiscali, e quindi non solo Polizia di Stato, come dicevo Francesca, ma anche Fiamme Gialle. Ma raccontaci un po' come mai la Polizia ha voluto esprimere le sue raccomandazioni su questo tema. Ma cosa ha scoperto? Beh, perché in realtà il fenomeno, appunto, non riusciamo a quantificarlo, ma è in grossa crescita il fenomeno di chi sceglie di affittare un appartamento per andare a fare le vacanze, quindi un appartamento al mare oppure un appartamento in montagna. Il problema qual è? È che gli annunci online non sono controllati, è impossibile controllarli, per cui si può rischiare di incappare in delle truffe, delle vere e proprie truffe. Allora la polizia consiglia di fare 3 controlli a chi sceglie internet per trovare una casa per le vacanze. Controllare il prezzo, controllare le foto e controllare la descrizione. Che cosa vogliono dire questi 3 controlli? Che quando il prezzo è troppo basso non è un affare, è una truffa. Bisogna stare attenti qui, perché si pensa sempre di aver fatto l'affare della vita, aver trovato un appartamento molto conveniente. Il più delle volte bisogna paragonarlo agli appartamenti della stessa zona nello stesso periodo dell'anno, perché se il prezzo non è in linea con il mercato c'è qualcosa che non va, questo lo dice la polizia. Seconda cosa, foto troppo bella per essere vera. Troppo belle per essere vera, sono fantastiche, attenzione, non sono vere, quindi consiglia alla polizia di cercare poi su Google, attraverso l'indirizzo esatto dell'appartamento, di cercare su Google Maps, sapete che si può fare questa ricerca con le foto fatte da Google per vedere se effettivamente la casa è quella che ci propongono, e anche la descrizione, se non è dettagliata, chiedere maggiori informazioni, maggiori dettagli a chi è l'affitta. Quindi diffidare anche dagli annunci brevi. Assolutamente, diffidare, chiedere sempre spiegazioni, chiedere l'indirizzo preciso, chiedere i contatti della persona che affitta, insomma non andarci alla leggera su queste cose, perché poi si rischia di arrivare lì e addirittura non trovare la casa, o comunque di spendere dei soldi per una casa che non è quella che speravamo. Quindi se la troviamo brutta ci va anche bene, la cosa peggiore è veramente non trovarla addirittura. Esatto. Francesca, un'ultima raccomandazione invece a proposito del pagamento. Naturalmente se si affitta su internet magari ci troviamo a che fare con un interlocutore che ci chiede la caparra, giustamente, ritengo io. Ecco, qual è quella percentuale di caparra che ci viene chiesta, che ci deve suonare anche in questo caso come campanello d'allarme sull'annuncio? Secondo la polizia non bisogna che la caparra non deve superare il 20% dell'affitto totale. Quindi diffidate di chi vi chiede una cifra maggiore per fermare l'affitto, ecco. E poi mi raccomando, ma la polizia si raccomanda in realtà alle transazioni sempre tracciabili, quindi state attenti quando vi chiedono di fare pagamenti sulle carte ricaricabili oppure con i servizi di trasferimento di denaro, perché lì si rischia di perdere poi la traccia del pagamento e i soldi non è possibile più recuperarli. Quindi attenzione, facciamo magari meglio il bonifico, utilizziamo questi sistemi che sono anche abbastanza diffusi come PayPal e altri appunto del genere. Grazie, esatto. Francesca Milano, e buone vacanze, Francesca. Grazie. Bene, è partiamo, tempo di andare con il traffico. Ci sentiamo un po' che succede stamattina sulle strade italiane. Tra poco. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Q. cuore e denari. E adesso diamo spazio alle notizie della nostra rassegna stampa di salute. Partiamo dai risultati di uno studio condotto dall'Università inglese di Portsmouth, presentato alla conferenza Brain Tumor di quest'anno a Varsavia, che ha acceso molte speranze. L'aspirina in forma liquida potrebbe essere la nuova arma contro il glioblastoma, che è una delle forme più aggressive e diffuse del tumore del cervello. Testata su cellule tumorali di adulti e bambini, la nuova formulazione si è rivelata più efficace di altre combinazioni di farmaci attualmente in utilizzo. Vogliamo commentare questa notizia insieme al professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. Buongiorno professor Remuzzi. Buongiorno, buongiorno. Cosa ci dice questa ricerca? Ci dice che forse siamo riusciti ad avere un'aspirina in forma liquida. Questa è una cosa che si cercava da molti anni perché avrebbe tantissimi vantaggi, comodità di somministrazione. Potrebbe anche ridurre il rischio di sanguinamento dello stomaco, che capita per quanto raramente in chi prende l'aspirina tutti i giorni o in modo continuativo anche per dolori, per mal di testa, per vari problemi. Ma soprattutto la cosa interessante di questa ricerca è che se uno prende questa aspirina ed espone cellule di tumore in vitro, cioè in provetta, in laboratorio, sì. Parliamo di esperimenti in vitro, come si dice, in laboratorio, in provetta, espone queste cellule di tumori che vengono da adulti o da bambini ad aspirina, queste cellule muoiono, mentre le cellule normali del cervello che sono esposte all'aspirina sopravvivono in modo normale. Quindi è molto interessante perché questa formulazione di aspirina liquida, che avrebbe la capacità di superare la barriera che i medici chiamano ematoencefalica, vuol dire la barriera che separa il sangue dal cervello, è una barriera che serve a proteggere il cervello. In questo caso però questa aspirina liquida la supera, riesce a penetrare nel cervello e in teoria, se facesse nell'uomo o nell'animale quello che fa in laboratorio, cioè uccidere selettivamente le cellule del tumore e soltanto quelle, sarebbe un passo avanti enorme. La cosa bella di questa ricerca è che loro non hanno esposto solo queste cellule del tumore all'aspirina, ma l'hanno esposta anche ai chemioterapici normali. E l'aspirina funziona addirittura di più, come avete detto nell'introduzione molto bene, dei farmaci che si usano normalmente per questo tumore, che è un tumore grave, drammatico, con una sopravvivenza molto molto ridotta e quindi abbiamo assolutamente bisogno di nuovi farmaci. Professore, lei ha sottolineato gli effetti collaterali dell'aspirina, perché ad esempio il ruolo preventivo dell'aspirina per le malattie cardiovascolari è studiato da anni perché protegge efficacemente cuore coronarie, ma attenzione perché come tutti i farmaci anche l'aspirina può dare problemi, questo è naturalmente le persone che assumono l'aspirina lo sanno, ma noi vogliamo ricordarlo, professore, quindi… In attesa che arrivi una aspirina liquida? La parte dell'aspirina è enorme, quindi il beneficio è enorme. C'è un piccolo rischio di sanguinamento, di gastrite, di sanguinamento dello stomaco, per esempio un rischio che si quantifica in 3 persone su 1000 in chi non prende l'aspirina e 6 su 1000 in chi prende l'aspirina. È il doppio, però i numeri assoluti sono un numero molto piccolo di pazienti che va incontro a queste complicazioni. Quindi se dobbiamo prendere l'aspirina perché abbiamo avuto un'ancina e vogliamo prevenire l'infarto, assolutamente va presa perché la capacità protettiva dell'aspirina è enorme. Però sappiamo che c'è questo piccolo rischio, quindi se uno non si sente bene, ha dei disturbi, si vede un po' pallido, è bene che sappia che può succedere questa complicazione e che si risolve quando uno se ne rende conto per tempo. Grazie professor Remuzzi per essere stato con noi e per il commento allo studio. Buona giornata, a presto. Grazie, grazie a voi, grazie. Della serie A volte ci ripensano. Parliamo del burro. Gli esperti lo scagionano dalle accuse di alimento poco sano e lo riabilitano secondo i risultati di una nuova ampia ricerca della Friedman School of Nutrition Science and Policy dell'Università americana pubblicata su PLOS One. Il consumo del burro non è associato alle malattie cardiovascolari e addirittura è stato osservato anche un lieve effetto protettivo nei confronti del diabete. Dicevo troppo ampia, perché per arrivare a questa conclusione gli studiosi hanno analizzato i dati di 9 ricerche che hanno coinvolto oltre 630.000 persone. In linea con noi per il commento a questa indagine il dottor Massimo Gualerzi, cardiologo, esperto di prevenzione e riabilitazione cardiometabolica. Buongiorno dottor Gualerzi, benvenuto anche a lei. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, il burro riabilitato. Beh, diciamo che lo studio parla di una riabilitazione del burro, in realtà non era mai stato così, diciamo, rinnegato fino in fondo. Parliamo di 14 grammi al giorno, che possono essere una quantità assolutamente giusta per avere tutti i vantaggi del burro senza avere gli svantaggi legati a un consumo più ampio. E parliamo di burro comunque crudo e non burro, diciamo, cucinato, che invece ha un apporto nutrizionale molto peggiore. Quindi meglio crudo. Leggevo qualche giorno fa di Belen, che ha avuto un sacco di like perché si è fatta fotografare sul bordo di una piscina con pane, burro e marmellata. Vabbè. Belen è Belen, ma pane, burro e marmellata possiamo prenderlo anche noi che non siamo belli come lei. È un'ottima colazione, soprattutto per gli sportivi, fornisce molta energia e fornisce l'apporto migliore del burro, cioè il burro crudo, circa 2 cucchiaini al giorno, perché contiene una sostanza, tra l'altro molto studiata, almeno un paio di sostanze molto studiate. Uno è lo squalene, che oggi viene studiato anche in ambito oncologico, l'altro è l'acido acetico, che ha un'azione ipolitica addirittura, e quindi un'azione anche di insulinosensibilizzazione, ed è il motivo per cui c'è questa blanda prevenzione del diabete. Quindi nei dosaggi giusti, nel modo giusto, nel tempo giusto, anche questo, diciamo, alimento può essere utile. Aggiungo una piccola cosa: molto spesso vengono riabilitati anche perché l'alternativa per molte persone al mi burro ha tolto la ecco. No, vada, dica lei dottore. No, dico che l'alternativa, no, per molte persone al burro non è l'olio, che in teoria è anche meglio, anche se ricordiamo che l'olio ha circa il 30% di calorie in più rispetto al burro, quindi è più calorico, ma sappiamo che non ragioniamo con le calorie, perché diciamo che invece per molte persone l'alternativa al burro sono gli acidi grassi esterificati, ad esempio le margherine, che sono sicuramente molto più dannose. Quindi sia il burro al posto delle margherine, l'olio diciamo che è abbastanza imbattibile, ma nel momento giusto anche il burro fornisce sostanze assolutamente giuste, soprattutto per gli sportivi. E a proposito di sportivi, lo anticipiamo, il dottor Gualerzi domani sarà qui negli studi di Radio 24. Mi stavo chiedendo di come non è che mi fai Monterosa. La sorpresona che perché l'ha invitato finalmente oggi, domani non viene qua. No, lo invitiamo perché i nostri ascoltatori. Sì, vogliamo rispondere a tutte le mail che sono arrivate per dei nostri ascoltatori che vogliono un po' rimettersi in forma per l'estate. Alcuni di loro sono sportivi e vogliono continuare ad allenarsi e quindi ci sono i dubbi: cosa mangio, quanto bevo, eccetera, ma anche come diversificare, parola che ormai ho imparato accompagnandoti nelle trasmissioni, anche diversificare gli allenamenti, attività aerobica, anaerobica, quando, come, perché, come si fa a cambiare il passo. Insieme al dottor Gualerzi domani torneremo probabilmente a parlare anche di burro e di questo squalene che ci è squalene da squalo, dottor Gualerzi. Vedi? Dottor Gualerzi, intanto si incammini di corsa qua, l'aspettiamo domani. Va bene, noi, grazie, a domani. Noi andiamo di corsa il nostro GR, ma ritorniamo subito dopo insieme, vi aspettiamo. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Cuore e denari. Allora, continuiamo, ancora buongiorno a tutti, ad affrontare gli scenari possibili post-Brexit. Questa è un'altra parola con la quale, un po' come con lo spread qualche anno fa, adesso faremo colazione, pranzo e cena, sarà l'argomento al centro del dibattito, a patto che i pasti siano secondo le regole di Nicoletta, naturalmente. Noi ci inseriamo anche questo ingrediente magico, che è quello Brexit, appunto. Come preannunciato già venerdì scorso, oggi è il turno del lavoro. Intanto vi segnalo che sta proseguendo anche l'iniziativa speciale delle Sole 24 Ore, l'estate un po' dell'emergenza post-Brexit. Oggi nelle pagine delle Sole, per l'appunto, ci sono tanti articoli dedicati per esempio ancora al tema della volatilità sui mercati e l'effetto persino sul sistema previdenziale e sulle pensioni. Noi invece, come vi dicevo, parleremo della situazione di chi, armi e bagagli, si è trasferito a Londra in cerca di opportunità di lavoro, magari temporanee, che si sono poi trasformate in definitive, durature stabili. Oggi, alla luce del referendum che ha sancito la volontà inglese di uscire dalla cornice europea, queste situazioni professionali diventano di nuovo precarie? Quali saranno le condizioni a cui si potrà rimanere in territorio britannico per una prestazione professionale, per i permessi di ingresso e lavori in quel paese? Molti aspetti su cui oggi saprà chiarirci le idee un amico di Cuore Denari, che è l'avvocato Giampiero Falasca, giuslavorista, esperto di diritto del lavoro per il Sole 24 Ore. Ben ritrovato. Buongiorno avvocato. Allora, prima di sentire però l'avvocato Falasca, naturalmente noi vorremmo sentire anche le testimonianze di chi sta vivendo sulla propria pelle questa condizione di, non lo so, emergenza, comunque certamente preoccupazione. Parleremo con un paio di italiani che appunto questi armi e bagagli le hanno fatte da qualche anno e adesso con grande soddisfazione anche professionale vivevano da qualche tempo a Londra e stanno immaginando se dovranno rimettere in discussione tutta la loro vita ormai assolutamente organizzata e stabile a Londra. Saluto subito Cristina Carducci. Cristina, buongiorno, ciao, benvenuta a Cuore Denari. Buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Lei Cristina. È una donna di Cuore Denari perché sì. Vive a Londra da 6 anni, al momento lavora come marketing manager per il primo ristorante italiano gluten free in UK e parallelamente segue anche alcuni progetti dedicati alla comunità italiana a Londra, fra cui Italian Kingdom e Dr. London. Allora Cristina, poi a prescindere dalle tue iniziative ed attività, se ce la facciamo le raccontiamo nel dettaglio, vorrei però capire come è partita la tua vita professionale a Londra, quando sei partita appunto, che cosa hai dovuto fare per stabilirti professionalmente lì? Parlo proprio in termini pratici, nel senso hai avuto subito bisogno di un contratto di lavoro stabile per poterti stabilire a Londra. Come è stato il primo approccio? Ma la mia esperienza a Londra è molto simile a quella di molti italiani che arrivano, o almeno fino ad oggi è stato così. Nel senso, io sono arrivata a Londra ormai 6 anni fa, pensando di fare un'esperienza temporanea per imparare la lingua, e quindi mi sono messa subito all'opera per trovare un lavoro. E ho iniziato veramente dal basso, nel senso, non sapendo bene l'inglese, mi sono, diciamo, tra virgolette, accontentata di un lavoro come cameriera. Dopodiché, studiando inglese nel frattempo, ho migliorato la mia posizione e ho cominciato a rilavorare nel mio campo, che era sempre stato quello della comunicazione, diciamo che ho avuto la possibilità di usufruire delle opportunità che la Gran Bretagna ha sempre dato agli europei fino ad oggi, quindi quello di costruirsi una posizione, anche se ovviamente a costo di sacrifici, però con tutte le garanzie, certo, del caso. Tu adesso paghi le tasse lì, Cristina? Io pago le tasse qui dal primo giorno, perché comunque c'è sempre stato bisogno di un contratto, c'è sempre stato bisogno, cioè la prima cosa che si fa quando si trasferisce a Londra è la richiesta del National Insurance Number, che è una sorta di codice fiscale che si dà a coloro che possono dimostrare di avere un contratto di lavoro o studiano. Mm-hmm. Almeno fino ad oggi è stato così, insomma. Adesso ci mettiamo un bel punto interrogativo. Tu temi che la tua situazione possa cambiare, Cristina? È molto presto per dirlo, adesso ragioneremo su questo con l'avvocato Falasca, però hai già sentore che per poterti continuare a mantenere a Londra qualcosa potrà cambiare per te? Ma sicuramente qualcosa cambierà. Personalmente, essendo qui da 6 anni, diciamo che probabilmente correrò meno rischi di altri. Quello che posso dire però è che molte persone che sono qui da più di 5 anni e che quindi hanno la possibilità di richiedere la cittadinanza o la permanenza residente si sono già mosse per farlo. Certo. Io ho molti amici che hanno già chiesto. È necessario un esame, giusto? È un processo lungo, sì, è un processo lungo e anche costoso, ovviamente ha dei costi. E sono previste molte molte domande nel prossimo, esatto, futuro. Va bene, Cristina, dici. Sì. No, dico, il problema più grande sarà più che altro per chi è in Inghilterra, in Gran Bretagna, da meno di 5 anni o per chi si vorrà trasferire, perché la Gran Bretagna è sempre stata una delle mete preferite degli italiani. Noi siamo circa 500.000, sì, e non è poco, e da adesso in poi probabilmente le persone sceglieranno molto più facilmente altre mete, perché insomma, tra l'altro anche dal punto di vista universitario, le rette universitarie sono già alte, sono circa in media, diciamo, circa 9.000 sterline all'anno, però fino ad oggi il governo garantiva i prestiti a tutti i cittadini europei. Adesso potrà essere un'opportunità preclusa appunto ai cittadini europei e riservata e mantenuta ovviamente solo ai britannici. Cristina, grazie, esatto, per essere stata con noi. Ti devo salutare molto velocemente perché ne ho un'altra di testimonianza, poi vorrei andare un po' di indicazioni appunto con l'avvocato Falasca. Però ci hai dato il numero sulle presenze degli italiani nel Regno Unito, oltre 500.000, solo nella sola Londra risiedono stabilmente oltre 250.000 cittadini del nostro paese, rendendo, senti Nicoletta, la capitale britannica la 13ª città italiana per numero di abitanti, alle spalle di Verona e davanti a Messina. E quindi, insomma, è veramente un piccolo esercito di persone preoccupate, secondo lei, avvocato Falasca, pronte a rifare le valigie per tornare a casa, secondo lei? Ma sì, probabilmente un po' di apprensione c'è, perché adesso, insomma, si sta cercando di capire quanto sarà alto il muro che bisognerà costruire, perché l'unica certezza che abbiamo è che bisognerà costruire un muro dove oggi c'era una bella passerella. Diciamo, nella Manica c'era una passerella ancora più bella di quella che ha fatto Cristo sul lago. Anche io stavo pensando alla stessa cosa, vedi? Perché è un'immagine che viene subito accesa. Dovremo smontarla, questa è l'unica certezza. Poi quanto sarà alto il muro non lo sappiamo. E quindi poi ne parliamo ancora meglio dopo, certo, però insomma questo può impattare molto. Quello che diceva la vostra ascoltatrice, si arriva e si prende il numero di previdenza sociale. Già prima della Brexit Cameron voleva mettere in discussione questo principio, voleva riservare solo ai cittadini britannici alcune prestazioni di welfare. Questo ovviamente cambia moltissimo il modo di stare in quel paese, perché è chiaro che se uno non ha l'accesso alle prestazioni sociali, alla sanità e quant'altro, è un ospite molto indesiderato. Allora, quindi volevo intanto, avvocato Falasco, ovviamente dare spazio, se vogliono, anche ai nostri ascoltatori, se possono raccontarci qual è stata la loro esperienza in questo senso, propria o di congiunti, familiari, figli, nipoti, di esperienza appunto a Londra, se è stato facile avviare una propria iniziativa professionale o trovare un posto di lavoro, e adesso che cosa temono. 800 24 00 24, il numero verde come sempre a vostra disposizione. Allora, è troppo presto per fare qualunque progetto, dobbiamo ribadirlo con più forza, ancora con forza, bisogna ragionare con cautela, non si è ancora aperto ufficialmente il negoziato per l'uscita, quindi ancora non siamo assolutamente in grado di dare un quadro chiaro delle conseguenze pratiche di questa nuova situazione europea. Però, avvocato Falasca, possiamo fare il punto della situazione dei principali istituti giuridici che potrebbero mutare. Partiamo con le novità che potrebbero riguardare la libertà di ingresso e di lavoro nel territorio del Regno Unito. Esatto, diciamo, allora 10 secondi di premessa. I modelli a cui potremmo arrivare sono fondamentalmente due: quello norvegese, in cui sostanzialmente la Norvegia è uscita per finta, ma diciamo ha le stesse prerogative di uno Stato membro e paga per pieno i contributi all'Unione Europea, ma di volta in volta si può risultare. Oppure ci potrebbe essere il modello di uscita reale, cioè ci si stacca e il Regno Unito diventa uno Stato extracomunitario a tutti gli effetti. Se prevalesse questa seconda ipotesi, ovviamente bisognerebbe reintrodurre un sistema di visti. Chi vuole andare nel Regno Unito dovrà chiedere il visto, come oggi si deve chiedere il visto per andare negli Stati Uniti, esatto, per fare un esempio, e chi vorrà lavorare nel Regno Unito dovrà chiedere un permesso di soggiorno, come devono fare tutti i cittadini extracomunitari che vengono in uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Quindi questo, il cambiamento sarebbe fortissimo, ovviamente varrebbe anche per le imprese, cioè se oggi io voglio aprire un'attività in riva a Altamigi, cosa che hanno fatto decine di migliaia di nostri connazionali, vado e fondamentalmente apro, tra l'altro con meno burocrazia di quella che troverei in Italia. Domani probabilmente sarà introdotto anche un sistema che renderà più difficile partire. Certo. E qua non è che stiamo parlando di chissà quali tipologie di impresa, magari banalmente pensiamo a quelle che possono essere. Tra l'altro, anche lì, a proposito di numeri che ho dato all'inizio, volevo raccontare anche in che ambiti lavorassero tutti questi italiani che sono a Londra e anche lì trovare un dato, un po' come mi è successo per la prima parte della trasmissione, recente, è stato molto difficile. I dati li diffonde generalmente l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'AIRE, ma è abbastanza appunto complicato avere un quadro aggiornato della situazione. Quello che è certo è che c'è un boom di richiesta di operatori nel settore sanitario e su questo trend si sono spesi tantissimi articoli che abbiamo ritrovato appunto con Marco Lombardo, per il resto ovviamente tanta ristorazione, molti operai anche specializzati, ma trovare appunto una fotografia abbastanza aggiornata ed interessante che si riferisse al 2014-2015 per esempio è stato difficile. Gli ultimi dati addirittura disponibili da questo censimento dell'AIRE risalgono al 2008, per cui non me li sono neanche portati perché non mi sembravano tanto interessanti da raccontare. Buongiorno a Davide Baroncelli, che invece è a Londra da 9 anni e lavora per Google. Buongiorno Davide. Buongiorno. Un innamorato del Regno Unito e lui ci ha raccontato: io adesso vivo in affitto ed era proprio in questo momento stavo pensando di comprare casa, ma insomma desisterò perché come sarà il mercato immobiliare? Sicuramente favorevole, Davide, magari adesso puoi andare a caccia di occasioni visto che ho visto che c'è stato un tracollo dei prezzi, in particolar modo un tracollo che riguarda gli immobili di pregio, non so quanto ti possa interessare un taglio di questo tipo, ma magari proprio lì puoi andare a caccia dell'occasione della tua vita. Guarda, io e Deborah veniamo, esatto. Se hai problemi, se compri una casa troppo grande e una stanza in più te allora, la occupiamo con piacere. La tua storia professionale, Davide, invece qual è? Poi ci racconterai anche quella immobiliare. Sì, dunque io mi sono appunto trasferito 9 anni fa, sono inizialmente, diciamo, l'idea era di passare alcuni mesi qui prima che la mia posizione lavorativa venisse aperta a Milano. Poi mi dissero già a metà del processo di assunzione che non pensavano più di assumere ingegneri a Milano, quindi mi sono trasferito. Pensando, non so, magari rimarrò un paio d'anni e invece 9 anni dopo sono ancora qui. Ti si sono dilatati. Sì, è una storia un po' diversa rispetto alle persone che si sono trasferite alla ricerca di lavoro, insomma, ecco. Io un lavoro è il percorso opposto, insomma. Senti, invece a proposito di permessi, burocrazia, che cosa hai dovuto affrontare di particolarmente complicato per garantirti appunto una serena permanenza a Londra? O tutto sommato non c'è stato nulla di complicato, in realtà potrebbe adesso complicarsi la situazione per figure come la tua, oppure come diceva Cristina, per chi sta ormai da un bel po' di anni, in realtà non ci saranno tanti scossoni e tanti mutamenti da subire, tra virgolette, Davide. A suo tempo assolutamente niente, cioè per chi arrivava dall'Italia, per chi arriva ancora oggi dall'Italia, l'aspetto burocratico è veramente molto limitato, cioè si tratta, che ne so, di trovare una casa in affitto, di aprire un conto in banca, di fare i contratti con gas, luce, eccetera, e è tutto lì. Adesso ovviamente sì, le cose potrebbero diventare più complicate dal punto di vista non solo di magari ottenere un permesso di lavoro o cose del genere, ma dal punto di vista anche dell'interazione con le persone. Io sono, a dire il vero, un po' più preoccupato dagli aspetti legati per esempio alla possibilità dell'insorgere di xenofobia o che il clima generale della città cambi rispetto a come è stato in questi anni, molto aperto, molto come dire, molto amichevole, molto inclusivo da questo punto di vista. Chiarissimo. Davide, raccontaci un po' come cambieranno le cose per te, manteniamo questo filo diretto anche perché appunto questo processo di uscita sarà ancora lungo e poi non è detto che potrebbe che sarà così devastante appunto soprattutto in termini di questi flussi migratori per il lavoro. Grazie anche a te, buona giornata. Avvocato Falasca, allora lei prima toccava il tema del si arriva in Inghilterra, ci si iscrive alla previdenza previdenza appunto inglese, i servizi di welfare è un capitolo molto delicato, abbiamo sempre l'idea che nei paesi anglosassoni l'assistenza sanitaria costi un patrimonio, quali sono le regole attuali che consentono ai cittadini di fruire dei servizi di welfare del Regno Unito? Ma oggi ce l'hanno detto bene i nostri connazionali, tra l'altro Davide conferma una cosa che volevo dire prima, che ci sono tantissimi italiani che fanno servizi ad alto valore aggiunto oggi in UK, cioè nella finanza, nel mondo legale. Io lavoro in uno studio inglese e ho tantissimi colleghi italiani che stanno lì, quindi insomma cioè, esportiamo cervelli, non solo manodopera. Tornando alla domanda, il criterio è la residenza, cioè chi risiede nel Regno Unito ed è un cittadino comunitario è un cittadino uguale a tutti gli altri, cioè non esiste proprio il concetto di cittadinanza britannica, e quello che riverrà fuori è quello che creerà i problemi ai nostri connazionali e a tutti gli stranieri, cioè si tornerà ad essere una distinzione tra l'essere britannico e non essere. Certo. Purtroppo abbiamo ammazzato il sogno d'Europa, secondo me un po' accecati dalla paura dello straniero, molti britannici si sono dimenticati di guardare cosa andavano a perdere, perché oggi chi è stato a Londra negli ultimi anni ha visto una città straordinaria, davvero era la capitale del mondo per il clima internazionale, lo scambio che c'era e quant'altro. Purtroppo il welfare, che è la cosa più concreta, sarà il primo banco di prova insieme all'ingresso, cioè si tornerà ad essere un straniero e quindi si tornerà ad avere problemi all'accesso al sistema. Le faccio sentire quello che ci chiede Gino Damari, vediamo se siamo in grado di dargli una risposta. Gino, se ce la fa, molto rapido, la ringrazio molto. Sì, grazie, buongiorno. Io chiamo da Bari e ho 58 anni. Ho un figlio di 33 anni che da circa 2 anni lavora a Londra con la sua fidanzata. Sì. Purtroppo ultimamente è uscita incinta. Questa è una bella cosa, no? No, Gino, certo, perché purtroppo è uscita incinta? Sì. No, perché c'è il problema riguardo questa Brexit, che cosa può succedere se va in ospedale. Certo. Voglio dire, Gino, grazie. Avvocato Falasca, se questo bambino nasce a Londra? Ah beh, diciamo che entro 2 anni nascerà, presumo, quindi no. Diciamo ad oggi non gli... Ci mettiamo di solito 9 mesi, ecco. Avvocato. Esatto. Anche i migliori. Diciamo, il bambino è fortunato, resta ancora un bambino nato in territorio comunitario. Dopo... non lo sappiamo, rifaccio l'esempio di prima, cioè se si sceglie il modello norvegese, la Norvegia su tutte le materie più importanti si comporta come un cittadino dell'Unione Europea, addirittura paga i contributi all'Unione Europea, rispetta le norme comunitarie e garantisce l'accesso ai cittadini comunitari a tutta una serie di servizi. Se passa il modello più hard di uscita, cioè per cui sono uno stato assolutamente straniero, tra virgolette, rispetto all'Unione Europea, in quel caso bisognerà vedere tra 2 anni cosa succederà. Esatto, ma certamente però proprio non ci sarà. Risposte certe non ne possiamo dare a nessuno. Senta, avvocato, 30 secondi per dirmi, chiedere il passaporto inglese per chi sta lì, come nel caso di appunto Cristina e Davide, da un bel po' di tempo, se non lo avessero fatto, chiederlo è utile? Sì, secondo me sì, cioè chi ne è requisiti e vuole stare lì sicuramente, per avere insomma meno problemi in futuro, dovrebbe attivarsi già da ora. Vi segnalo tra l'altro che c'è stato il boom di iscrizioni all'AIRE prima del referendum, sempre nella stessa ottica, cioè, di tutelarsi. Ah, ma perché c'è tanta gente che stava là magari da tempo e non l'aveva ancora fatto? Non sì, è obbligatorio, sì. Per... Sarebbe, però in realtà la cosa bella Europa, che nessuno di noi ha saputo vendere, che si andava, come diceva prima Davide, non bisognava fare nulla, certo. Si prendeva un affitto, cioè, e quindi anche l'iscrizione all'AIRE era vissuta un po' come una burocrazia aggiuntiva. Esatto, e poi però si rispettava questa richiesta di iscrizione lì quando c'era da fare la voluntary disclosure, no? Poi avvocato, dovremmo aprire un'altra parentesi. Avvocato Falasca, insomma, qualche puntino su lei stamattina ne abbiamo messi, ma potrebbero essere spostati tutti quanti, perché qua non sappiamo veramente questa uscita dall'Unione Europea che cosa comporterà. Ancora presto per poterlo dire, però insomma qualche previsione l'abbiamo fatta e vedremo prossimamente, quando dovremo parlare in concreto, che cosa diremo. Intanto grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi. Grazie molte. A tutti. Buongiorno, a presto. Velocissimamente la borsa e poi ritorniamo in diretta e parleremo di una universitaria eccezionale. Straordinaria. A tra poco. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Studentessa universitaria, triste e solitaria, nella tua stanzetetta umida. Abbiamo parlato di lavoro, no? Degli effetti della Brexit sul lavoro dei connazionali che sono in Inghilterra, ma avrà, a proposito di lavoro, lavorato parecchio la nostra prossima ospite, che ha conseguito la laurea magistrale in scienze filosofiche con la votazione di 110 e lode. rafforzo anche io. Brava! Se vi state chiedendo il motivo di tutto questo entusiasmo, state con noi perché voglio farvi conoscere la dottoressa Perrone, Concetta per gli amici, che è in linea con noi, insieme anche al professor Alberto Albanese, responsabile dell'unità operativa di neurologia all'ospedale Humanitas. Buongiorno a tutte e due, grazie. Buongiorno. Concetta. Buongiorno professore. Beh, allora, dottoressa Perrone, dovrei chiamarla così, ma lei mi ha detto che preferisce essere chiamata per nome, quindi esatto, Concetta. Concetta, senza Concetta, brava. Né la dottoressa né niente. Niente. Allora, finalmente ha potuto realizzare il suo sogno, no? Per anni l'ha tenuto nel cassetto perché lavoro, matrimonio, figli da crescere, nipoti e pronipoti da accudire. Alla fine Concetta che cosa ha detto? Io la laurea me la voglio prendere e ce l'ha fatta. Come è andata? È stato difficile rimettersi? No, assolutamente no. Perché guardi, ho avuto la fortuna, mi scusi se l'ho interrotta, ho avuto la fortuna di non, io non sono sposata, non ho avuto figli, ho seguito i nipoti e pronipoti negli studi fino alla maturità e quindi diciamo così mi sono mantenuta in allenamento. Ecco, allora, è sempre non si chiedono gli anni alle signore, no, ma... No, io a ottobre, lo dico, a ottobre sono 84, anche perché si è scritto su tutti i giornali. Brava. Allora, è questo che rende la cosa un po' straordinaria. Ma Concetta, quindi lei era in allenamento, ha preparato certo. Le maturità con nipoti e pronipoti e poi... Certo. Ma aveva un piano di lavoro nella sua giornata? Cioè, lo studio al pomeriggio piuttosto... La mattina, perché il pomeriggio è impegnata con il volontariato nella chiesa. Allora senta Concetta, io ho detto al professor Albanese, professore devo farle conoscere una donna straordinaria, professore, lei che si occupa di cervello, lei deve fare un miracolo, deve farci tenere il nostro cervello e farlo diventare come quello di Concetta oggi. Sì, è probabilmente una persona multitasking, diciamo, e quindi si è mantenuta attiva, e noi... mentalmente attiva. Questo è un po' il segreto, ma prima di salutare Concetta, io vorrei chiedere a lei, professore, che cosa l'ha colpita di Concetta, anche perché i neurologi usano proprio i dettagli, quelli che sembrano insignificanti, loro sentono. Che cosa ha di Concetta? Le ha sentito rapidamente raccontare la storia, questo tono, questo entusiasmo, questo... Che cosa l'ha colpita, professore? La sua normalità, nel senso che le cose così che importanti avvengono con normalità. Lei non l'ha fatto né con sforzo né con un progetto particolarmente che le è costato fatica o per lei impegnativo, l'ha fatto perché voleva farlo e l'ha fatto naturalmente. Quindi da una parte una sua capacità che preesisteva e dall'altra una sua possibilità di farlo lungo il percorso degli studi, di mantenere una capacità durante gli studi. Quindi Concetta, però lei prima di salutarci ci dia un po' una ricettina, perché adesso insomma 84 anni portati splendidamente, un grande entusiasmo, sì. Al mattino studiava, al pomeriggio si dedica al volontariato, nipoti e pronipoti accompagnati alla maturità, una laurea in tasca in filosofia, quindi ha tutte le caratteristiche per darci un consiglio. Guardi, consiglio lo può dare senz'altro il professore che ha parlato adesso, al quale vorrei anche rivolgere una cosa, cioè io ho avuto la fortuna, il presidente della commissione di laurea è il professore Antonio Godino, che senz'altro è un psichiatra pure lui. Quindi io ho fatto innanzitutto, a prescindere che è stato presidente della seduta di laurea, no? Ma ho sostenuto due esami con lui ed è una persona squisita, veramente una come devo dire, eccezionale, è psichiatra proprio lui, eh? Quindi diciamo così, le lezioni che ha tenuto sono state tutte quante illuminanti. Illuminanti, sì, quindi meglio del professore non può valutare. Ecco, quindi vuol dire anche gli incontri fanno la differenza, Concetta. Certo, noi siamo contenti di averla avuta qui a Cuore Denari, è una... diventerà grandissima una nostra motivazione da non prescindere dal riprendere magari un corso di studi universitari eccetera, ma per assolvere a tutti gli impegni a volte della quotidianità che ci sembrano così faticosi, invece hai visto? Concetta, complimenti, un abbraccio grande e se viene a Milano venga a trovarci. Senz'altro. Grazie. Grazie a voi, arrivederci, ciao. Professore, l'attività mentale, chiaro, non protegge dall'invecchiamento naturale del cervello, tuttavia può far sì che il cervello invecchi nel modo migliore e in salute. Sì, sicuramente, e vi sono studi che dimostrano come la complessità cognitiva sia il fattore necessario per influenzare l'invecchiamento cognitivo. Per esempio viaggiare, fare la maglia, che non è facilissimo, giocare, fare le parole incrociate, suonare strumenti musicali, proprio che sono compiti complessi e quindi impegnano la complessità del cervello e riducono il rischio di demenza. Ecco, quindi diamoci da fare. È dimostrato questo, sì, assolutamente. Allora, professore, io prima in apertura insieme a Deborah scherzavamo su questa nuova tecnica giapponese che è praticamente un bagno nel bosco, sì, non un tuffo nella natura. Che qualcuno fa. Ecco, per ridurre lo stress, che sappiamo può produrre degli effetti anche, no, sul nostro cervello, può in certo senso usurare anche il nostro cervello. Allora abbiamo chiesto ai nostri amici di raccontarci che cosa fanno per tenere anche sotto controllo lo stress. Ci ha risposto subito con entusiasmo Antonio da Lodi. Buongiorno Antonio, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti e a tutti i radioascoltatori. Antonio, lei si tuffa? Quasi tutti i giorni se riesco. Ed è un'abitudine da ormai una ventina d'anni, da quando ho lasciato Milano per andare ad abitare dove volevo, vicino a un fiume. Vicino a un fiume. E lei quindi praticamente senza saperlo seguiva già questa tecnica, esatto, giapponese. Esatto, a cui mi ha introdotto mio padre quando ero ragazzo, che qua da Milano mi portava sul fiume Adda per passare le giornate fuori. Io mi sono attaccato a questa pratica e poi mi sono reso conto che mentre lavoro, sono un libero professionista, sono un fotografo, faccio un lavoro un po'. Sono sempre in giro di qua, di là. E quando ho bisogno di staccare, ne sento proprio una necessità fisica, o quando non riesco a risolvere qualche problema lavorativo, dico ok, stop, andiamo nell'ufficio del verde. Nell'ufficio del verde, vedi, lo Shirin Yoku sull'Adda. Consiglio anche una cosa, di non staccare il telefono, magari la chiacchierata di lavoro, il problema di lavoro, il telefono, risolviamo mentre siamo nel verde. Grazie Antonio, ci mandi una foto, che così se non riusciamo ad andare nel verde almeno lo guardiamo. Esatto, me la mando volentieri. Grazie di cuore. Professore Albanese, quante è storie. Molto bella questa cosa, è notizia di oggi che Barack Obama si ritaglia sempre un momento di solitudine a fine giornata, perché è preso da così tanti incontri che ha bisogno, ora lui lo farà nello studio ovale invece che sull'Adda, però è questo momento di lasciare andare i pensieri, di concentrarsi in maniera anche più spontanea è molto importante, riduce proprio, perché lo stress mentalmente focalizza i pensieri, quindi ci limita le capacità proprio di multitasking, multidominio. Lo stress limita mentalmente, e questi quindi lasciar spaziare è sicuramente molto importante. E allora noi chiediamo agli ascoltatori di raccontarci se e come, in quale occasione della giornata riescono a staccare un pochino la spina, forse per riuscire a mettere ordine proprio nei pensieri che affollano la nostra mente. Professor Albanese, intanto in questi minuti che ci separano dalla chiusura di Cuore Denari sino a mezzogiorno, cercheremo di dare un po' risposta a tutti i dubbi dei nostri ascoltatori, ma intanto noi vorremmo diventare come Concetta. Ci dia qualche elemento per capire se il nostro cervello si porta bene i suoi anni. Proviamo a capire insomma se età biologica ed età anagrafica coincidono. Ci aiuta? Sì, è variabilissimo da una persona all'altra. Ci sono sicuramente predisposizioni genetiche. Infatti sappiamo che chi è figlio di persone che vivono a lungo senza problemi, difficoltà cognitive, hanno una più alta probabilità di farlo, di vivere a lungo senza problemi cognitivi. Poi vi sono alcuni amici che noi abbiamo, per esempio il sonno, per esempio come dicevo l'attività mentale, alimentazione e dieta, attività fisica, attività sociale, che dimostrato facilitano il prolungamento delle capacità cognitive. E questo sicuramente è importante, dobbiamo inserirlo nel nostro stile di vita. Per esempio la deprivazione di sonno, soprattutto cronica, come succede nei nostri stili di vita, è un nemico, perché può dare difficoltà attentive e quindi ridurre le capacità decisionali, anche farci fare errori. però ci riduce anche la memoria e anche la capacità sia a breve termine che a lungo termine della memoria. Quindi chi dorme po' in modo non adeguato, ha un sonno che non rispetta, no, le regole né di qualità né di quantità, non recupera. Nel breve o nel lungo periodo potrebbe avere dei problemi a livello delle capacità di memoria, delle funzioni cognitive relative alla memoria e quant'altro? Sì, c'è la deprivazione acuta, può succedere, ma in genere non si ripete tanto spesso, ma soprattutto la deprivazione cronica, sì, assolutamente, e questo è dimostrato da studi scientifici che la deprivazione cronica di sonno, il dormire in maniera insufficiente come numero di ore, come qualità, e sicuramente facilita il decadimento. Ecco, professore, per fare questo, per risolvere il problema dell'insonnia, molte persone prendono delle pastigliette, no? Ma allora Comunque queste pastigliette tendono a ridurre la funzione cerebrale in qualche modo per facilitare il sonno, possono ridurla in varie modalità, essere più ipnoinducenti o più sedativi, ma in tutti questi casi non sono degli amici dell'attività cognitiva, sicuramente non aiutano. Se prese occasionalmente non creano problemi, ma se prese in maniera cronica non sono sicuramente degli amici del lungo funzionamento cognitivo. Ne parliamo tra poco, perché chi soffre di insonnia e prende, anche se prescritto dal proprio medico, dei farmaci per dormire bene, che cosa deve fare? Deve fare dei controlli in più? Deve compensare in qualche modo? Subito dopo le informazioni sul traffico, ma parleremo anche degli scherzetti della memoria. Fino a quanto sono fisiologici, quando invece possono o dovrebbero essere considerati dei segnali, non dico di allarme, ma di attenzione per cui confrontarsi con il medico. A tra poco. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Cuore e Denari. Buongiorno, si può prendermi? Buongiorno, sì. Ma tu sei Nicola? La ragazza di Stromboli. La ragazza di Stromboli ha un nome. Ah sì, certo. Aspetta, non me lo dire. Marcella. No, Mirella. Ma sì, Mirella, certo, scusami. Ma ti ricordi quella cosa che mi avevi detto tu? Che bisognava sempre cercare il mistero. Quella cosa che dicevi tu. Dicevo così, non mi ricordo. E siamo tornati in brutto segno, Deborah. Lui non è interessato se si dimentica il nome di lei. Sono totalmente brutto. D'accordo, sì. Non si ricorda neanche di momenti passati con lei. Professor Albanese. Sì, va interpretato sicuramente. Esserci motivi certo. Psicologici o... Scarso o interesse in questo caso, no? Sì. Difficoltà dell'attenzione, magari era distratto da qualcosa in quel momento. Sta salvando la categoria. Sì, professor Albanese. Una di genere. Allora, intanto è tratto da un film molto famoso. Se volete testare la vostra memoria, diteci il titolo del film all'800240024. Anche possiamo fare anche oggi un domandone, non solo nel nostro appuntamento del giovedì. Intanto, professor Albanese, a proposito di memoria, ci sono dei farmaci che possono usurare il nostro cervello, possiamo dire così? Sì, lo fanno funzionare meno e quindi presi in maniera cronica, quindi prolungata, possono appunto farlo funzionare meno nel tempo e quindi ridurre quella ricchezza di cui abbiamo bisogno per mantenerlo allenato. Che cosa deve fare una persona che sta assumendo questi farmaci? Di che categoria di farmaci stiamo parlando intanto? Ci sono dei sedativi minori con meccanismi d'azione molto diversi fra loro, ci sono dei farmaci ipnoinducenti, ci sono dei sedativi maggiori o neurolettici che sono particolarmente efficaci negativamente in questo senso, ci sono anche gli antidepressivi che sono molto utilizzati diciamo soprattutto nel mondo occidentale, hanno avuto una larga diffusione e continuano ad averla. Tutti questi farmaci agiscono in qualche modo, in maniera diversa, sulla nostra velocità di pensiero, sulla capacità di gestire domini multipli, complessità soprattutto, e riducono in vario modo, in maniera più forte o meno forte, questa ricchezza di complessità. Ma lei, che è un neurologo, se una persona viene da lei e le racconta un po' questa storia, no? Sto prendendo da anni questo tipo di farmaci, uno dei farmaci di cui lei ha accennato, lei che cosa consiglia? Fa fare degli esami, fa delle domande aggiuntive? Perché stanno arrivando tantissimi messaggi di ascoltatori che ci scrivono anche il nome del farmaco che prendono. Bisogna, a quale attenzione e precauzione è opportuno avere, oltre al evidentemente il non fare il vietato il fai da te? Sì, certo, non bisogna generalizzare. Diciamo che ci sono molte ragioni per prendere i farmaci migliorano la nostra vita, certo, e risolvono tanti problemi. Però poi c'è anche una tendenza a fare un trascinamento, cioè a continuare ad usarli, particolarmente questi farmaci. A volte ci sono motivi molto importanti per prenderli e non si possono sospendere. Però c'è anche un uso un po' così più diffuso. Ci sono persone, per esempio, che si appoggiano ai farmaci per dormire laddove potrebbero trovare un modo di riposare più naturale con modalità diverse. I farmaci poi spesso nel tempo modificano la loro azione, danno o assuefazioni o modificazioni di risposta, quindi vanno seguiti nel tempo, i loro effetti vanno seguiti. Ecco, il messaggio più semplice è: non prendete il farmaco che vi ha consigliato la vicina, che dice a me con questo mi fa bene, dormo così bene, prendilo anche tu, perché succede. Intanto, professor Albanese, memoria, allora abbiamo aperto con una scena di un celebre film di cui i nostri ascoltatori stanno già mettendosi, no? Se lo ricordano, segnali fisiologici, segnali invece che possono essere riferiti al medico. È normale dimenticarsi il posto dove mettiamo le chiavi, dove parcheggiamo la macchina, il nome della persona che magari abbiamo sulla punta della lingua, abbiamo incontrato, incrociato tante volte per occasioni di lavoro, ma proprio non ci viene? Allora è normale dimenticare. Dimenticare è assolutamente indispensabile. Se non dimenticassimo, saremmo assolutamente incapaci di memorizzare nuove informazioni. Quindi la questione è: che cosa dimentichiamo? Se dimentichiamo qualcosa che non è critico per la nostra vita, per il nostro modo di vivere, può far parte così del dimenticare fisiologico. Il problema sorge quando dimentichiamo cose che sono importanti, fondamentali e che non vorremmo e non dovremmo dimenticare. E lì c'è spesso dei pazienti che hanno questo problema, si accorgono prima che vi siano dei segni oggettivi, si accorgono di non farcela. E quindi la difficoltà del medico, l'expertise del medico è proprio discernere questi casi che dimenticano e non vorrebbero o dovrebbero, da quelli che dimenticano perché sono, appunto, hanno una minore attenzione, perché hanno magari dei pensieri dominanti e quindi per ragioni psicologiche tendono a dimenticare perché si focalizzano altrove. Questo si può fare con dei test, ma oggi la medicina si focalizza sulla fase pre-test, pre-sintomatica, quello che si chiama il deficit cognitivo soggettivo, cioè prima ancora che sia obiettivo, ed è la frontiera attuale di queste caratteristiche. Lì veramente non è facile riuscire a dare la giusta misura. Per cui entro certi limiti le persone hanno normalità nel dimenticare. Quindi non dobbiamo preoccuparci, ma dobbiamo cercare di capire se questo ci altera significativamente la vita, ci altera le funzioni, oppure se è un aspetto che diventa più così caratteristico di una modalità non critica della nostra giornata, soprattutto se è transitorio, perché ci sono fasi in cui si tende a essere meno concentrati. Perché siamo troppo stanchi, perché abbiamo troppi pensieri per la testa, perché non seguiamo quelle che anche sul sito Humanitas vengono e sono naturalmente confermate dalla ricerca, sottolineate come le 5 regole, 5 ingredienti della ricetta per un cervello sano, che il professore ha già anticipato: buon sonno, allenamento mentale, attività fisica, fisica, alimentazione e dieta e attività sociali. Anche le relazioni contano, ma la memoria di Maria Antonietta è sicuramente ottima e quindi sì, evidentemente esatto. I cinque ingredienti della ricetta le sta seguendo. Maria Antonietta, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie di avermi richiamato. Allora, il film era? Era La meglio gioventù. Brava, Maria Antonietta. Uno dei più bei film italiani, ecco. Complimenti ancora, è vero, è un film bellissimo. Professor Albanese, noi ci salutiamo, abbiamo ripassato Grazie. Le regole per un cervello sano, aggiungendo anche qualche informazione in più. La ringrazio, le auguro una buona giornata, mentre ai nostri ascoltatori diamo appuntamento come ma sempre. Ma se lo ricordano benissimo, domani alle 10.30, e non se ce mai. Ne fossero, se ne aggiungono sempre di nuovi, brava, quindi alle 10.30 vi aspettiamo buona domani. Buona giornata.